Quel giorno riaffiorarono alla mente dell'umanità. Il terrore di essere assoggettati da quelli. L'umiliazione di essere tenuti in gabbia. Il nostro obiettivo è uno solo! Dobbiamo conquistare la postazione e farla diventare il punto d'appoggio all'infuori delle mura! Bersaglio in avvicinamento! Dividetevi in cinque come da addestramento! Provvederemo noi a fare da esca! Tutte le unità in movimento tridimensionale! Mikasa. Direi di tornare a casa. Che ci facciamo noi qui? Hai dormito così profondamente da restare intontito? No. Ho come l'impressione di aver fatto un sogno lunghissimo. Ma di che cosa si trattava? Non riesco a ricordarlo. Eren, perché stai piangendo? Ascoltatemi! Le mura sono state erette con la profonda saggezza delle divinità! Le mura stesse, fino all'ultima pietra, sono opera delle divinità! Nessun uomo, chiunque gli sia, dovrà mai dissacrare queste mura! Non lo devi dire a nessuno, che mi sono messo a piangere. Non lo dirò, però mettersi a piangere senza alcuna ragione non è normale. Forse dovresti farti visitare dallo zio. Ma che assurdità! Non dirò una cosa simile a mio padre! Stavi piangendo, Eren? Signor Hannes! Che c'è? Mikasa ti ha fatto arrabbiare? Cosa? Perché mai dovrei mettermi a piangere? Ah, puzza di alcol! Che c'è di male? Di nuovo a bere. Volete unirvi a noi? No, ma il vostro lavoro... Oh, oggi siamo di guardia al portone. Ci tocca stare qui tutto il santo giorno. Sfido che poi ci si svuota lo stomaco e ci si secca la gola. Se in mezzo alle bevande ogni tanto finisce anche qualche alcolico, non mi sembra un problema di grande importanza. Ma se accadesse il peggio, riuscireste a combattere? Eh? Che intendi dire con il peggio? C'è bisogno di domandarlo! Nel caso quelli riuscissero a sfondare le mura e entrare in città! Forza, venite! Correte a comprare i miei pesci! Oh, Eren, non puoi metterti a gridare così all'improvviso. Vedo che hai energia da vendere, figlio del dottore. Se quelli dovessero sfondare le mura, assolveremo ai nostri compiti come si deve. Comunque sta tranquillo, in 100 anni una cosa del genere non è mai accaduta. Ma non credete che il momento di maggior pericolo sia proprio quando si è tutti tranquilli e fiduciosi? Chi diventa un soldato, magari lavorando al rafforzamento delle mura, potrebbe imbattersi in quelli che si aggirano là fuori. Ma non credo proprio che quelli possano fare nulla contro delle mura alte 50 metri. Ma quindi... Non siete mai stati determinati a combattere! Esatto. Che Che cosa? Allora smettetela di farvi chiamare corpo di guarnigione e diventate semplici operai! Non suona per niente male. Ma cerca di ragionare, Eren. Se i soldati entrano in azione, vuol dire che tutto volge al peggio, non credi? È quando ci prendono in giro chiamandoci mangiapane a sbafo e ci considerano inutili che tutti sanno di vivere in pace e tranquillità. Oh, certo. Si può anche non uscire dalle mura neppure una volta in tutta la vita. Basta mangiare e dormire per poter comunque vivere. Ma così è come essere... come essere degli animali in cattività. Oh. Parla da coraggioso il ragazzino. Nonostante non posso fare niente per cambiare le cose, giusto, Hannes? Già. Ehi, Eren! Che tipo strano, non trovate? Mi è venuto il sospetto che voglia entrare a far parte del corpo di ricerca. Eren, ti conviene rinunciare a quello che hai in mente. Che c'è? Anche tu disprezzi il corpo di ricerca? La questione non è se lo disprezzo o meno. Le campane! Sono tornati! Si apre il portone principale! Andiamo, Mikasa! È il ritorno degli eroi! Dannazione! Non riesco a vedere! Come mai ne sono tornati così pochi? Saranno finiti tutti divorati. Ecco cosa succede uscire al di fuori dalle mura senza necessità. Moses! Moses! Moses! Scusate, mio figlio, Moses. Non riesco a vederlo. Sapete dirmi dov'è mio figlio? Dunque lei è la madre di Moses. Portalo qui. È l'unica parte del corpo che siamo riusciti a recuperare. Ad ogni modo, mio figlio, è stato utile alla causa, non è vero? Forse non si è distinto in battaglia come un grande eroe, ma perlomeno la sua morte sarà una spinta per combattere, non è così? Naturalmente. No. Stavolta la nostra ricerca, o meglio, ancora una volta, non ha portato risultati, nessun progresso! Sono un completo fallito. Sono riuscito soltanto a far morire inutilmente i miei soldati, senza riuscire a scoprire nulla sulla vera natura dei giganti! È davvero terribile. Hai ragione. È come se i nostri tributi servissero soltanto per diventare cibo per i giganti. Oh! Ehi, che ti prende, ragazzino? Che stai facendo, Mikasa? Torna qui, disgraziato! Mikasa, adesso puoi lasciarmi! Ma che ti è preso? Mi hai fatto cadere tutta la legna! Eren, hai cambiato idea sul fatto di voler entrare nel corpo di ricerca. Aiutami a raccoglierla. Non ne è accaduta tanta. Eccoci a casa. Bentornati, ragazzi. Oh, Eren, una volta tanto oggi ti sei stranamente impegnato. Già. Ma che significa? Avevi le orecchie rosse. È la prova che hai mentito. Ti sei fatto aiutare da Mikasa, non è vero? Oh, papà, devi partire. Per lavoro. Già, visite mediche nelle terre interne. Ne avrò per 2 o 3 giorni. Eren ha detto che vuole entrare nel corpo di ricerca. Mikasa, ti avevo chiesto di non dirlo! Eren! Ma che cosa ti salta in mente? Lo sai quante sono le persone che sono uscite dalle mura e che hanno perso la vita? Certo che lo so! Se è così, allora... Eren! Perché mai desideri andare all'esterno? Perché voglio sapere. Sapere com'è fatto il mondo al di fuori di qua. Non voglio passare tutta la mia esistenza all'interno delle mura, ignaro di tutto. Inoltre, se non ci fosse più nessuno con questo scopo, i nostri cittadini avrebbero perso la loro vita invano. Capisco. Il barcone sta per partire. Devo andare. Aspetta un momento, caro. Devi prima persuadere Eren. Carla, il desiderio di scoperta che è nell'essere umano non è un qualcosa che si può soffocare facilmente. Eren. Al mio ritorno ti mostrerò la stanza sotterranea che ti ho sempre tenuta segreta. Oh, dici sul serio? Fa buon viaggio! Non se ne parla neanche. Unirsi al corpo di ricerca, che stupidaggine! Stupidaggine! A me sembrano molto più sciocche le persone che riescono a condurre una vita da animali in cattività! Eren! Che ti succede, eretico? Prova a picchiarmi se vuoi dimostrarmi che sbaglio! Come potrei? Se lo facessi, mi abbasserei al vostro stesso livello. Come ti permetti? Ti comporti così perché sai che quello che ho detto è giusto. Non puoi ribattere e l'unica cosa che sai fare è picchiarmi. E questo significa una dichiarazione di sconfitta da parte tua. Chiudi quella bocca! Adesso ne ho abbastanza! Fermo! Eren! Rieccolo quello stupido bamboccio! Vuoi farti cambiare i connotati? Diamogli una lezione. C'è anche Mikasa! Ci mancava solo questa, ritirata! Oh, mi hanno visto e sono fuggiti tutti in un lampo. No, sono fuggiti per aver visto Mikasa. Oh. Ehi, tutto bene, Armin? Posso rialzarmi da solo? D'accordo. Quindi, non appena ho detto che prima o poi il genere umano dovrà andare nel mondo esterno, si sono messi a picchiarmi, dandomi dell'eretico. Maledizione! Perché basta dire di voler uscire fuori dalle mura per essere guardati con odio? Questo perché siamo rimasti qui a vivere in pace e tranquillità per più di 100 anni. Ma c'è il rischio che quelli possano entrare nel momento stesso che le persone escono dalle mura. Perciò è comprensibile che... il governo reale abbia sempre sconsigliato l'interesse per il mondo esterno. È la nostra vita che mettiamo in gioco. E guarda soltanto noi. Non se ne parla neppure. Non se ne parla. Ehi, tu piuttosto! Perché lo hai rivelato ai miei? Non ti ho mai offerto il mio aiuto. E quindi com'è andata? Beh, ecco, non ne sono stati affatto felici. Oh, certo, lo immagino. Non capisco. Che cosa passi per la mente delle persone convinte che qui saranno tranquille e al sicuro per l'eternità? Mamma! Nonostante le mura non siano mai state distrutte in 100 anni, niente ci assicura che non possano essere distrutte oggi stesso. Un'esplosione! È stato laggiù! Sembra che sia caduto qualcosa! Non si riesce bene a capire! Ehi, Armin! Che ti ha preso? Si può sapere che cosa state guardando? Ah? Assurdo! Quelle mura sono alte 50 metri! È uno di quelli! Era un gigante! Campo. È la fine! I giganti hanno invaso la nostra città! Non possono aver abbattuto casa mia! Voltato l'angolo! Casa mia sarà lì, come sempre! Mamma! Mamma! Mikasa! Tu va di là, spostiamo la trave! Devi sbrigarti, Mikasa! Lo so! I giganti sono entrati, non è così? Eren, fuggi portando Mikasa con te! Presto! Voglio fuggire anch'io! Cosa credi? Esci da là! Le mie gambe sono state schiacciate dalle macerie. Anche se uscissi da qui, non potrei mai mettermi a correre. Lo capisci? Scapperò portandoti in spalla! Perché non vuoi mai ascoltare quello che ti dice tua madre? Almeno all'ultimo potresti anche darmi ascolto! Mikasa! No, no, non voglio! Ma così moriremo tutti e tre! Signor Hades! Scappi portando via i ragazzi con sé! Credo che tu mi stia sottovalutando, Carla. Farò fuori il gigante e porterò in salvo tutti e tre senza problemi! Si fermi! Non può combatterlo! Farla! quel giorno riaffiorarono alla mente dell'umanità il terrore di essere assoggettati da quelli, l'umiliazione di essere tenuti in gabbia. Le aree circostanti lungo i vari punti strategici delle mura, come Shiganshina, avevano il ruolo di esche per attirare i giganti e limitare il numero dei militari e i relativi costi. Gli abitanti del distretto di Shiganshina, divenuti bersaglio dei giganti come richiesto dal loro ruolo, non avevano altra scelta se non fuggire attraverso un unico portone. Gettate tutti i vostri bagagli! Dobbiamo fare spazio alle persone! Armin, resta seduto. Ma nonno, Eren e Mikasa non sono ancora... Oh, sono arrivati! Eren. Perdere tempo! Fate in fretta! Cadete le munizioni! Sbrigatevi, ormai sono proprio davanti a noi! Ormai è al completo! Partite! È assurdo! Vi prego, fateci salire! Almeno i bambini! Mi dispiace, ma non è possibile! Avanti, partite! Fateci salire! Dobbiamo salire! Chiudete, aspettate solo un altro po'. Sono ancora molte le persone rimaste lì dentro. Se riuscissero a sfondare questo portone, i giganti si impadronirebbero di ben altro che di una sola città. Non abbiamo scelta, dobbiamo far retrocedere ogni essere umano fino alle prossime mura. Ma non possiamo lasciar morire delle persone così davanti ai nostri occhi. Chiudete, presto! I giganti stanno arrivando! Affrettatevi a chiudere il portone! Fermi! Fate fuoco! Non gli ha fatto nulla! Ma che cosa? Presto, scappiamo! Arriva! Al riparo! Un gigante sta arrivando! Farà irruzione presto, il portone! Questa è la fine. Siamo spacciati. Non ce la faremo. Finiremo tutti divorati dai giganti. Non abbiamo scampo. È la fine. Io non potrò più fare ritorno in quella casa. Ormai mia madre non c'è più. Non è più da nessuna parte. Perché? Perché io? Perché gli esseri umani sono deboli. E chi è debole non può fare altro che piangere. Li eliminerò da questo mondo. Eren. Che ti prende, Eren? Eren. Io ucciderò tutti i giganti. Li eliminerò tutti. Senza lasciarne neppure uno. Eren. Il prezzo di 100 anni di pace è stato pagato con un più che tragico evento. La consapevolezza della crisi che stavamo vivendo non ribaltava in alcun modo la nostra incapacità di reagire all'improvvisa apparizione del gigante colossale. E così il genere umano ha dovuto abbandonare il Wall Maria e la sua area di attività è stata retrocessa fino al Wall Rose. Non sarebbe poi così incredibile se persino in questo preciso istante quel gigante colossale si presentasse a distruggere le mura. Voi che quest'oggi vi diplomate, a partire da questo preciso giorno affronterete quella minaccia che risponde al nome di giganti, grazie alle tecniche da voi apprese in questi 3 anni di addestramento. Offrite il vostro cuore! Sì, signore! Per voi si palesano 3 possibilità di scelta. Il corpo di guarnigione per il rafforzamento delle mura e la protezione di ogni singola città. Il corpo di ricerca per sfidare i giganti nei loro domini al di fuori delle mura. Infine il corpo di gendarmeria per controllare la popolazione e mantenere l'ordine. Ma la prerogativa di poter scegliere il corpo di gendarmeria spetta unicamente a chi occupa le prime 10 posizioni in graduatoria. Finalmente ho coronato il mio sogno. Stavolta saremo noi a fare un solo boccone dei giganti. Sì! Ce l'ho fatta! Adesso sono nel corpo di gendarmeria! Non rischierò mai più di soffrire la fame! Gian, hai deciso a quale corpo vuoi appartenere? Che domande, al corpo di gendarmeria? Per quale altro motivo credi che volessi entrare tra i primi 10? Giusto, ho deciso di fare la stessa scelta. Avere la possibilità di lavorare accanto al re è un vero onore. Ehi, Marco! Non darti aria da persona assennata e di la verità. Se vuoi entrare nel corpo di gendarmeria, è perché ti aspetta una vita tranquilla e sicura nei territori interni. E lo stesso vale per tutti voi, giusto? Beh, in effetti... Se possiamo cavarcela senza dover combattere i giganti... È proprio come pensavo. Vogliamo andare tutti nei territori interni. Sì, io lo voglio. Chiederò di entrare nel corpo di gendarmeria. Anch'io. Eh? Però non voglio che si pensi che lo faccia per stare con te. I territori interni sarebbero tranquilli? 5 anni fa, anche questi erano territori interni. E che cosa vorresti dire con questo? Gian, io non mi preoccuperei. La tua testa vuota è al sicuro anche qui. Eren. Lo sai anche tu, se non vado errato, quanti esseri umani hanno divorato finora? 10 migliaia. Per cercare di riprenderci i territori dai quali i giganti ci hanno scacciato, abbiamo perduto almeno il 20% della popolazione. Non ci sono più domande da porsi. La verità è qui, chiara, davanti ai nostri occhi. Non possiamo farci nulla. Il genere umano non può sconfiggere i giganti. E allora? Dobbiamo arrenderci solo perché pensiamo di non poterli vincere? Ma che... Abbiamo perso. Ma le informazioni ottenute nei combattimenti ci danno speranza per il futuro. Dovremmo abbandonare tutto l'avanzamento tattico sviluppato grazie al sacrificio di migliaia di persone e diventare cibo per giganti senza fare storie. Io ho deciso che entrerò nel corpo di ricerca e sterminerò i giganti senza lasciarne neppure uno. Eren. Quello che ha una testolina tutta particolare sei tu, mi sembra. Cosa hai detto? Non credere che qui ci sia qualcuno disposto a darti il suo appoggio. Se vuoi andarci, vacci da solo fuori dalle mura. Oh. Eren! Guardate, eccoli che ricominciano. Fatela finita! Arriverà l'istruttore! Ehi, ma che fai? Mettimi giù! Ehi, Mikasa! Ti ho detto di mettermi giù! Mi hai sentito? Mi spieghi perché ti sei messa in mezzo? Vuoi lasciarmi in pace? Quando ti scaldi troppo, perdi ogni ragione e agisci d'impulso. E voi? Che cosa intendete fare? Quale corpo sceglierete? Io invece voglio entrare nel corpo di ricerca! Ma non dirai mica sul serio! Sei stato il migliore nelle lezioni teoriche, devi sfruttare queste capacità. È che non voglio essere un peso per te. Anch'io entrerò nel corpo di ricerca. Che cosa? Ma sei la prima del corso, tu non puoi farlo. Se tu entrerai nel corpo di gendarmeria, allora lo farò anch'io. E se invece sceglierai il corpo di guarnigione, io farò la stessa cosa. Senza di me tu andresti incontro ad una morte sicura. Io non posso chiederti questo. E io non voglio perdere altri familiari. No. Cosa? Tu entrerai nel corpo di ricerca. Dicevi sempre che avresti scelto la gendarmeria. Sì, questo è vero, però... A quanto pare il tuo discorso di ieri ha fatto effetto. Ma smettila! Guarda che io ho deciso tutto da solo. Non sentirti in imbarazzo. Non sei certo l'unico. Vuoi dire che anche tu... Ehi, guardate ragazza. Questa l'ho presa dal deposito viveri dei nostri superiori. Vuoi essere sbattuta in una cella di isolamento? Sei veramente una sciocca. Lo sai bene quello che rischi. Più tardi, se volete, la divideremo fra tutte. La faremo a fettine e la metteremo nel pane! Devi riportarla indietro. Giusto. Negli ultimi anni la carne è diventata una merce fin troppo preziosa. Non vedo il problema. Tra qualche tempo potremo ricominciare ad allevare i bovini. La voglio anch'io, quella carne! Sì, anch'io! Lasciamene un po' da parte, d'accordo? Mi raccomando, lo stesso vale anche per me. Ma ragazzi... Non startene lì impalato, Eren. Ora torna al lavoro o finiranno per scoprirci. Ci rivediamo alla pausa pranzo. Sono passati 5 anni. Finalmente, il genere umano sta ritrovando la sua dignità. Possiamo vincere. La controffensiva sta per iniziare. Poco. Ma quella è una breccia! Non è possibile. I giganti ci stanno di nuovo attaccando. Dal primo all'ultimo. Quarto plotone artiglieria! Prepararsi al combattimento! L'obiettivo è davanti a noi! Tutti ai pezzi! È la nostra occasione! Ciao! Ti stavo aspettando! Di mira ai cannoni. E non è certo un caso che abbia sfondato la porta principale. Senza dubbio, è dotato di intelligenza. Comunque, l'occasione che stavo aspettando! Io devo abbatterlo! Prendi questo! Sembra svanito nel nulla. Eren! Sei riuscito a sconfiggerlo! Per niente! È come 5 anni fa! È comparso all'improvviso! E all'improvviso è svanito! Portate con voi soltanto lo stretto necessario! E non fatevi prendere dal panico! Se sfondassero qui, si ripeterebbe la stessa tragedia di 5 anni fa! Dobbiamo riuscire a fermarli! Cadetti, voi siete ormai soldati addestrati e pronti a combattere! Ci aspettiamo che facciate fino in fondo il vostro dovere! Tu non ti preoccupare, Anna. Vedrai, ci penserò io a proteggerti. Franz... Va tutto bene, Armin! Sì, sta tranquillo. Vedrai che questo tremore passerà subito. Comunque, abbiamo un bel problema con quella breccia nelle mura. Non ci sono i mezzi necessari per richiuderla. E anche quell'enorme massa nei pressi della porta si è rivelato impossibile da spostare. È solo questione di tempo e supereranno il Wall Rose! Armin! Sta calmo. Stavolta è diverso. Il genere umano non si lascerà più sconfiggere. Ti chiedo scusa. Ora sto meglio. Ma perché proprio oggi? Domani mattina sarei dovuto partire per i territori interni. Va tutto bene, Daz? Sì. Oh. Scansati. Ehi, Gian, mi vuoi dire che ti prendi? Me lo chiedi anche. Pensaci bene, qui sei soltanto tu a non vedere l'ora di finire in pasto ai giganti. Calmati adesso. Certo, così potrò morire tranquillo, vero? Invece no! Ed ora ascolta. Ripensa a tutto quello che abbiamo passato in questi 3 anni. Siamo stati diverse volte sul punto di morire. E c'è stato chi è morto davvero. Alcuni sono fuggiti, altri invece si sono arresi. Ma noi due siamo sopravvissuti. Ricordatelo! E sono certo che sopravviveremo ancora. Oggi battiti qui con noi e domani seguirai il tuo destino. D'accordo. Andiamo, Daz. Non startene lì a piagnucolare. Eren, se la situazione dovesse degenerare, cerca di raggiungermi. Cosa? Ma noi due siamo in squadre diverse. Se scoppierà il caos, non credo proprio che questo conterà molto. Ma almeno potrò proteggerti. Ma che cosa diavolo stai dicendo? Ha detto Ackerman. Oh. Sei stata assegnata alla retroguardia. Seguimi. Ma io rischierei solo di esservi d'intralcio. Cosa? Comunque, in questa fase, voglio più soldati scelti a fianco della popolazione civile. Ma io non... Ehi! Adesso basta, Mikasa! Non ti ci puoi mettere anche tu. La nostra razza rischia l'estinzione e ora non puoi certo permetterti di comportarti da egoista. Sì, hai ragione tu. Ho paura di aver perso il controllo. Io devo chiederti solo una cosa. Ti prego, Eren, cerca di non morire. Non morirò. No. Non posso permettermi di morire adesso. Quando ancora non so niente della reale situazione del mondo esterno. Senti, Armin. Non ti sembra che sia una splendida occasione? Se prima ancora di entrare nel corpo di ricerca riusciremo a farci valere nel battesimo del fuoco, verremo sicuramente promossi di grado, alla faccia di tutte le altre reclute. Sì, certo, mi piacerebbe molto. Vorrei ricordarvi che qui sono sempre moltissimi a chiedere di entrare nel corpo di ricerca. Se qualche volta sei riuscito a battermi, Eren, adesso non ci riuscirai più. Ne sei proprio sicuro? Allora sfidiamoci a chi ucciderà più giganti. Sì, ma senza imbrogliare. Squadra 34, fornite il vostro appoggio all'avanguardia! Coraggio, tocca a noi! Sì! Devono aver già annientato tutta l'avanguardia! Sì, compresi i diplomati ai corsi precedenti al nostro! Non mi aspettavo certo che fosse una passeggiata, ma questo è un incubo! È un anomalo! Arriva! Attenti! Aiuto! Dove credi di andare? Ara! Fermati! Niente azioni individuali! Ritorna qui! Io devo vendicare Thomas! Non ti permetterò di sfuggirmi! Eren! Eren! Mangiarmi, ti prego! Perché? Perché? Devo assistere allo spettacolo dei miei compagni che vengono divorati vivi. Non riesco a muovere un solo muscolo. Devo scuotermi. Eren! Eren! Eren! Che cosa c'è adesso? Guarda qui! Mio nonno lo teneva nascosto in soffitta. È un vecchio libro che parla del mondo esterno. Hai un libro sul mondo esterno? Ma è illegale, devi subito distruggerlo. Potrebbero anche arrestarti, lo sai. Ma chi se ne importa? A quanto dice questo libro, la maggior parte del nostro mondo sarebbe ricoperta da un'immensa distesa d'acqua che una volta tutti chiamavano mare. E questo mare è composto d'acqua salata. Come? D'acqua salata? Ma questo non è assolutamente possibile. Sì, e non c'è soltanto questo. Lave incandescenti, continenti di ghiaccio, distese di sabbia. Di certo il mondo esterno è molto più grande di quanto possiamo immaginare. Mi piacerebbe vederlo. Sai cosa pensavo? Che sarebbe bello se anche noi un giorno potessimo andare a vedere che cosa c'è là fuori. Non posso! perché sei stato tu ad aprirmi gli occhi sul mondo esterno. Armin! Armin! Ma che ti è preso? Cerca di scuoterti! Allora, che cosa è successo? Ehi, sto parlando con te! Svegliati! È passata adesso? Va tutto bene? Non sei ferito, vero? Dov'è la tua squadra? La squadra? Andiamo, adesso cerca di riprenderti. Come mai sei rimasto da solo? E che cos'è questa roba viscida che hai addosso? Che è successo? Io sono un vigliacco! Non merito che la morte! Ehi, adesso cerca di calmarti, d'accordo? Dove sono gli altri? Basta così, Connie. Sono stati uccisi, tutti tranne lui. E tu che ne sai? Armin non ci ha ancora detto niente! Lo puoi capire guardandoti intorno, Connie. E anche per questo sarà meglio filarcela da qui. E come mai si sarebbe salvato soltanto lui? Chi può dirlo? Magari l'avranno preso per un cadavere. Deve essere stato un attacco condotto da più giganti. E se si è salvato solo uno tra i peggiori del corso, sarà difficile che possa vendicare i suoi compagni. Io farò in modo che tu... che tu non possa mai più dire queste cose! Smettetela tutti e due! Questo è il momento di fare fronte comune. Oggi abbiamo perso moltissimi dei nostri compagni. Lo dobbiamo fare per loro. Senti com'è brava la mia Krista. Quando tutta questa storia sarà finita, potrei anche sposarti. Vorrei sapere perché deve sempre comportarsi così. Ora ascolta, non puoi restare qui. Ce la fai ad alzarti? Oh. Perdonami se mi sono lasciato andare. Mi riunisco alla retroguardia. Cosa? Armin! Sveglia, Connie! Abbiamo ricevuto l'ordine di avanzare! Che orrore! In realtà, qui è sempre stato un inferno. Solo che fino ad ora non ce ne eravamo resi conto. Questo mondo è sempre stato... crudele. I forti hanno sempre oppresso i deboli. E tutti fingevano di non accorgersene. Soltanto i miei amici hanno cercato di essere forti per aiutarmi e proteggermi. È questa la realtà. Per loro ero solo qualcuno che andava protetto. E io avrei voluto essere forte come loro, per non dover dipendere da nessuno, e invece sono solo un debole che ha causato la morte di Eren. No! No! No! Io non ce la farò mai. È tutto inutile. Successo. Vieni ad aiutarmi, svelto! Non vedi? Franz ormai non respira più! Ho ripetuto più volte la procedura di rianimazione, ma è stato tutto inutile! Torna con noi! Dai, Anna, qui è pericoloso, ora devi tornare sui tetti! Non posso abbandonarlo così! Ormai è tutto inutile, Anna. Guardalo, è morto. Ora smettila! Smettila, ti scongiuro! Ormai è... è tutto... inutile! È stato... entrare! L'evacuazione dei cittadini è stata portata a termine! Ritirata! Ehi, John, che si fa adesso? Finalmente ci è arrivato l'ordine di ritirata, ma siamo bloccati qui dalla mancanza di gas. Stiamo rischiando di morire tutti. Per colpa di quei vigliacchi. Parli di quelli dell'approvvigionamento. E se invece fossero stati tutti annientati? No, avranno perso ogni desiderio di combattere. Non che non li capisca. Ma non è giusto che restino asserragliati nel quartier generale lasciandoci in questa situazione. Purtroppo, i giganti ci impediscono di avvicinarci al deposito del gas. Che vita inutile e banale è stata la mia. Se soltanto qualcuno me l'avesse detto prima. Rainer, adesso che si fa? Non è il momento. Facciamolo dopo che ci saremo radunati. Non c'è speranza. Più ci penso, più mi convinco che verremo annientati tutti entro questa sera. Non è che non sia ancora pronto a morire, ma che senso avrebbe una morte come questa? Mikasa, ma tu non eri nella retroguardia? Henry! Ho fatto il quadro della situazione. Ora scusate se metto in mezzo i miei sentimenti personali, ma avete visto la squadra di Eren? No, mi dispiace molto, Mikasa, ma non ho idea di dove sia. Devi provare a chiedere ad Armin. Ah? Armin! Mikasa, e adesso come farò a guardarla negli occhi? Armin, va tutto bene? Che cos'hai? Sei rimasto ferito? Dimmi, dov'è Eren? Armin. Dalla nostra 34esima squadra cadetti. Thomas Wagner. Naktias. Milius Zerbuski. Mina Carolina e Eren Jäger sono caduti eroicamente nell'adempimento del loro dovere. Non può essere. La 34esima squadra è stata quasi del tutto annientata. Anche noi, se dovessimo affrontare i giganti, faremmo la stessa fine. Ti chiedo perdono, Mikasa. Eren si è sacrificato per salvare me. Io non sono riuscito a fare nulla. Perdonami. Armin. Adesso calmati. Questo non è certo il momento adatto per lasciarsi andare. Coraggio, alzati. Marco! Dobbiamo riprendere possesso del quartier generale. Non possiamo più restare qui e abbiamo urgente bisogno di quel gas. Quindi dobbiamo attaccare. Senti, io sono d'accordo con te. Mai visto quanti sono, non ne usciremmo mai vivi. Invece sì. Io sono forte. Molto forte. Io sono più forte di tutti voi. Molto più forte. E sono pronta a prendere a calci tutti i giganti che mi si pareranno davanti. Dovessi anche farlo da sola. C'è qualcuno di voi che ha il coraggio di seguirmi? O siete tutti dei vigliacchi? Ad ogni modo, se volete restare qui a piagnucolare, è affar vostro. Aspetta, Mikasa. Tu che cosa vorresti fare? Hai veramente intenzione di affrontare da sola tutti quei giganti? Non hai la minima speranza di farcela! In questo caso vorrà dire che morirò. Ma almeno avrò avuto la speranza di vincere. Io ho capito perfettamente quello che speravi di ottenere. E sei riuscita nel tuo intento. Tu resti sempre la migliore tra tutti noi. Ehi! Ci è stato forse insegnato a lasciar combattere da soli i nostri compagni? O siete davvero diventati tutti dei vigliacchi? Che cosa stiamo aspettando ancora? Coraggio! Muovetevi! Che cosa fate lì impalati? Maledizione. E va bene. Facciamoci ammazzare tutti. Ah! Voglio più velocità! Non c'è tempo da perdere! Dobbiamo ammazzarli tutti prima di finire in ghiaccio! No, ma non può essere vero! Come fa a muoversi a quella velocità? No! Sta sprecando troppo gas! Rischia di esaurirlo in pochi secondi! E senza capacità di movimento siamo indifesi davanti ai giganti! Ma in questo modo, molto presto... Mikasa! D'accidenti! Gian! Adesso assumi tu il comando! Io seguo Armin! Vengo anch'io! No, scordatelo! Fa come ti ha detto! Ci sono ancora troppi giganti qui intorno! Di nuovo, la stessa esperienza. Ho perso un'altra persona cara. Ancora torno a provare questo dolore. È un dolore che adesso dovrò rivivere da sola. Questo mondo è estremamente crudele. Ma anche bellissimo. Te la regalo. È tua. Vedrai, starai bene con noi. Dai, ora andiamo. La mia è stata una bella vita. Di essermi arresa. Come mai? Mi sto rialzando. Perché continuo a lottare? A quale scopo? A questo punto, vivere non ha più senso. Allora cos'è che mi fa reagire? Battiti! Battiti! Eren! Battiti! Non stare a guardare! Battiti! Battiti! Ah? Perdonami, Eren. Io non mi arrenderò mai più. Non mi arrenderò mai più. Perché in quel caso... non sarei più degna di stare al tuo fianco. E perciò continuerò a battermi e non morirò così! Ma che succede? Come ti senti? Ehi, va tutto bene qui? Sì. Dobbiamo andarcene subito. Maledizione, ci sono due classi a 15 metri! No, no, guardate là. Il colpo di grazia! L'ha ucciso colpendolo nel loro punto debole! Comunque allontaniamoci. Potrebbe sempre tornare. No, no, noi non gli interessiamo. Se avesse voluto farlo, ci avrebbe già attaccati. Ha evidenti nozioni di combattimento corpo a corpo. Ma com'è possibile? Beh, l'unica cosa che possiamo dire è che si tratta di un esemplare anomalo. Ascoltate! Cosa c'è? Ho un'idea da proporvi. Di che cosa si tratta? È solo un'ipotesi. Ma vi chiedo di pensarci su. Irrompiamo nel quartier generale! Dannazione! Quanti siamo ad essere arrivati vivi fin qui? E quanti sono morti per aver obbedito al mio segnale? Voi siete quelli della squadra approvvigionamento? Sì, noi... Fermo, Gian! Sono questi vigliacchi che ci hanno abbandonato al nostro destino! È per colpa vostra se sono morti tanti valorosi soldati! Ma i giganti si sono impadroniti del deposito! Noi che cos'altro avremmo potuto fare? Certamente non nascondendovi qui dentro come avete fatto! Al riparo! Sono arrivati. Non potevamo sperare che non se ne accorgessero. È normale. Ormai è diventata questa la realtà. Finora avevo solo cercato di illudermi che fosse soltanto un brutto sogno. A pensarci bene, era facile da comprendere che contro esseri così giganteschi non è possibile vincere. Ma cosa... Che cos'è? Oh, sei tu, Mikasa! Ehi, per un pelo! Ormai sono vuote! Ce l'abbiamo fatta! Giusto all'ultimo salto! Oh, allora... Allora non ti hanno divorato! Ce l'abbiamo fatta, Armin! Il tuo folle piano ha funzionato alla grande! Ragazzi, quello è un gigante anomalo a cui piace uccidere altri giganti! E che non mostra alcun interesse nei nostri confronti! Se lo sfruttiamo a dovere, potremmo anche riuscire a filarcela da qui. Quindi voi vorreste sfruttare un gigante? Sì, di tutte le idee folli che ho sentito finora, questa è veramente la più folle di tutte. Non è follia. Non ho idea di cosa gli passi per la testa, ma quel gigante rappresenta la nostra unica speranza di salvezza. Se vogliamo cercare di salvarci tutti, credo che questa sia l'unica soluzione. Sì, hai ragione, sono d'accordo. Allora riparliamone più. Ho trovato qualcosa! Sono i fucili della gendarmeria. E sembrano ancora tutti funzionanti. Potremmo provare a caricarli con dei pallini di piombo. Anche se io non ci conto un granché. Ma qualche effetto dovrebbero averlo. Contro i giganti. Certo, sono sempre meglio di niente. Se nel deposito ci sono ancora 7 esemplari classe 3 e 4 metri, forse potremmo servircene per accecarli e aprire così una via di fuga. Potremmo far scendere una dozzina dei nostri migliori tiratori con il montacarichi, che sparando tutti contemporaneamente negli occhi dei giganti che si troveranno davanti, potranno accecarli. A quel punto scatterebbe la fase decisiva del piano. 7 di noi dovranno calarsi dal soffitto subito dopo gli spari per colpirli nel loro punto debole. In pratica, la sopravvivenza di tutti noi dipenderà solo dalla sincronia con cui condurremo le due fasi dell'attacco. Sarà infatti vitale riuscire ad abbatterli tutti contemporaneamente subito dopo averli accecati. Lascio a voi il compito, perché siete in assoluto quelli che hanno le migliori capacità di movimento. Lo so di affidarvi un'immensa responsabilità. E per questo vi chiedo scusa. No, non c'è nessun problema. Tanto al minimo errore moriremmo comunque tutti. Quindi il rischio è lo stesso. Sì, però siete sicuri di voler seguire un piano pensato ed elaborato da una nullità come me? Non abbiamo altra scelta. Ormai il tempo stringe. E poi non mi sembra che ci siano proposte migliori, quindi cerchiamo di darci da fare, d'accordo? Non preoccuparti e abbi fiducia in te stesso. Tu riesci sempre a trovare la soluzione migliore. Il montacarichi è pronto! E anche i fucili! Sono tutti carichi! Devi solo rendertene conto. Ne parleremo più tardi. D'accordo. Nessun problema. E sono sempre 7. Portiamo avanti il piano. State calmi. Facciamoli avvicinare il più possibile. Aspettate. Non possiamo permetterci errori. Se vogliamo uscire vivi da questo deposito, l'attacco dovrà riuscire al primo colpo. Aspettate. Ecco, ci siamo quasi. Fuoco! Colpito! E gli altri? Ehi, aiuto! Fate qualcosa, vi scongiuro! Sasha! Connie, cerca di fermarlo! Sasha e Connie in pericolo! Copriteli, presto! Va tutto bene? Sì, io credo di sì. Allora rimettiti in piedi. Devo chiederti scusa. E di cosa? Annie, ve la siete vista brutta. È una fortuna che siate ancora tutti interi. Li abbiamo annientati tutti! Adesso possiamo rifornirci! Ha funzionato! Tutti fuori! Riuniamoci al grosso dell'esercito! Guardate che salto! Siamo di nuovo in ballo! Torniamo verso le mura! Guardatevi intorno! È finita! Mikasa! Mikasa! Adesso dobbiamo andarcene! Guarda i giganti! Che cosa? adesso si mangiano anche tra loro. Io speravo che riuscendo a chiarire il mistero di quel gigante, magari potessimo arrivare ad avere una specie di nostro alleato per sbloccare tutta questa situazione. Sono d'accordo con te. Se adesso lo lasciamo morire, non riusciremo mai a scoprire niente. Dobbiamo assolutamente eliminare quei due mostri che lo stanno divorando vivo e sperare che sopravviva. Ma sei impazzito? Adesso che possiamo finalmente metterci in salvo. E perché no? Ascolta, quel gigante potrebbe anche diventare un nostro alleato, giusto? E in quel caso per noi sarebbe un'arma più potente di qualunque cannone. Che cosa? Hai detto alleato? Ma tu starai scherzando! Guardate! Quello è il gigante che ha divorato Thomas! Direi che sembra aver esaurito le ultime forze. Su, coraggio! Adesso filiamo via. È un'idea assurda allearsi con un gigante. Come si può pensare a una cosa del genere? Ma che cosa succede qui? Quello è Eren. Il braccio e la gamba che credevo avesse perso sono al loro posto. Ma io ho visto con i miei occhi un gigante che lo divorava. Ma allora... Che cosa è successo? È assurdo. Tutto questo, allora, è opera di Eren. Se nel distretto di Trost si ebbero gravissime perdite tra i soldati che lo difendevano, questo fu dovuto anche all'assenza degli uomini del corpo di ricerca, che proprio quella mattina avevano oltrepassato le mura per condurre una perlustrazione. Sono loro! È la prima unità del corpo di ricerca! Capitano Arvin, distrugga per noi quei dannati giganti! Guardate! È il Capitano Levi! Dicono che possieda da solo il potenziale di una brigata! Quanto sono noiosi! Sai, mi chiedo soltanto che cosa penserebbe tutta questa gente se venisse a sapere della tua esagerata mania per la pulizia. La missione consisteva nell'installazione di un punto d'appoggio all'esterno delle mura. Ogni singola missione comportava la morte di oltre il 30% dei componenti delle spedizioni. Era di questa portata la differenza di forza fra il genere umano e i giganti. Adesso ve la faremo vedere noi. A sopravvivere alla fine sarà il genere umano! Voi, feccia che non siete altro, verrete distrutti dal Capitano Levi! Un esemplare a destra e due a sinistra. Capitano, ho radunato tutti i rinforzi. Molto bene. Adesso prenditi cura del soldato ferito. Gli altri pensino al gigante di destra. E io sistemerò gli altri due. E adesso tocca a voi due. Avete dei musi davvero interessanti, lo sapete? Cerca di stare fermo, o non mi sarà possibile tranciare le tue carni con un taglionetto. Guarda qui che lerciume. Capitano, capitano, il sangue non si ferma. Capitano. Dimmi. Io sono stato utile alla nostra causa, non è vero? O forse ora sto morendo senza essere stato di nessun aiuto. Il ruolo che hai ricoperto è stato molto importante. E comunque, continuerai a ricoprirlo. La tua determinazione mi conferirà ancora più forza. Io te lo prometto, spazzeremo via quei mostri finché non ne resterà nemmeno uno. Capitano, ormai è... Mi avrà sentito fino all'ultimo. Certo che l'ha sentita fino all'ultimo. E adesso? All'espressione di chi si è tolto un peso. È meglio così. Levi! Dobbiamo ritirarci! Ma è assurdo. La nostra missione non è ancora finita. E io qui ho già perso degli uomini. I giganti si stanno muovendo in massa in direzione della città. Cosa? È esattamente come 5 anni fa. Temo che stia succedendo qualcosa. Può darsi che abbiano già aperto una breccia. Le reclute sono in attesa! Equipaggiate per ogni evenienza! E così siamo riusciti a fare rifornimento di gas. E poi abbattere in ritirata da Trost. Ma allora, tutti quelli che non vedo più qui sono stati... Sì. Oh. Davvero, e anche Mikasa? Cosa? No. No, Mikasa dovrebbe raggiungerci più tardi, dopo aver fatto rapporto. Gian, dimmi, Mikasa è rimasta ferita? Ehi, c'è qualcosa che non va? Siamo tutti obbligati al segreto. Mi dispiace. Obbligati al segreto? Ma che vuol dire? Tranquilli. Tanto non durerà molto a lungo. Presto ne verrà a conoscenza l'intero genere umano. Sempre ammesso che esisterà ancora. Fuoco! Eren! Armin! Seguitemi! Ma che vuoi fare? Oh. Ma perché un colpo solo? È all'interno delle mura! Ma che significa? Questo silenzio non mi piace per niente! Ma che sarà succedendo? Io mi chiedo solo di che cosa si tratta. Ehi! Ma ora dove... Stiamo a vedere. Avvicinarsi è troppo pericoloso. Rimanete tutti qui in posizione e ordina agli artiglieri di caricare il prossimo colpo. Bene, voi due! Eren, ma che succede? Io non lo so. So solamente che il braccio e la gamba che mi erano stati divorati sono ricresciuti. E che il corpo di guarnigione ha rivolto contro di noi un'arma utile all'uccisione dei giganti. Poco fa ho fatto apparire di nuovo il corpo da gigante. Ma neanch'io riesco a capire come ci sono riuscito. È qualcosa che ha a che fare con l'inconscio. So che guardando la chiave mi sono ricordato di una cosa. La stanza sotterranea. La stanza sotterranea a casa mia. Mio padre mi ha detto che se andassi lì riuscirei a comprendere tutto. Questa chiave, ricordati di portarla sempre con te. E ogni volta che la guarderai, sappi che un giorno dovrai andare in quella stanza sotterranea. Hai capito? Riconquistato il Wall Maria, dovrai assolutamente raggiungere la stanza segreta. E questa forza ti sarà d'aiuto in quel frangente. Se riuscissi a raggiungerla, forse potrei comprendere qual è la vera natura dei giganti. Ma adesso mi chiedo perché mio padre me l'abbia sempre tenuta nascosta. Quest'informazione potrebbe rappresentare la risposta che il corpo di ricerca ha tentato di trovare in questi anni al prezzo della vita di migliaia di suoi soldati. Mi chiedo perché nascondere qualcosa di così prezioso in una stanza segreta. Mio padre è stato un pazzo! Eren! Perdi sangue dal naso! Sei anche terribilmente pallido e hai il respiro molto affannato. Chi se ne importa se mi esce un po' di sangue? Vi ho già causato fin troppi problemi. Per questo ho intenzione di lasciare la città da solo. Ma non puoi farlo! Ascolta! Eren! Io verrò con te. È impossibile. E se anche non riuscissi a starti dietro, non dovrai certo preoccuparti per me. E comunque, non sarai tu a dirmi cosa fare. E tu non pretendere di farmi fare a modo tuo. Io non sono il tuo fratellino minore, è chiaro? La verità è che da quando ero piccolo, io non sono mai stato altro che un vigliacco. Loro mi hanno aiutato più volte di quante possa ricordare. Ma io non ho mai aiutato loro. Neanche una sola volta. Ho paura che potremmo non rivederci mai più. No! Non devo arrendermi. Ci deve essere ancora qualcosa che posso fare. E va bene, proverò a convincerli. Mi raccomando, voi due però fate in modo di non mostrare il minimo segno di ostilità. Da quando Eren si è trasformato in un gigante, c'è qualcosa che continua a non tornarmi. Non ho ancora riordinato del tutto le idee, ma devo farmi venire in mente qualcosa. Fermala! Finalmente il tuo amico ha rivelato la sua vera natura. Ma tu fa solo un altro passo e darò l'ordine di fare fuoco. Eren non è un pericolo per il genere umano. Ad ogni modo, noi siamo pronti a rivelarvi tutte le informazioni di cui siamo entrati a conoscenza. E che cosa dovrei farmene, secondo te? Moltissime persone l'hanno visto. Hanno visto un gigante apparire da un altro gigante. E hanno visto il momento in cui, dall'interno del corpo di quest'ultimo, è fuoriuscito Eren Jaeger. Potremo riparlarne. Non è necessaria nessuna prova. È vero. Perché non ci ho pensato prima? Cerchi di andare oltre le apparenze e si limiti a constatare la realtà delle cose. Che vorresti dire? In molti oggi l'avete visto battersi contro i giganti. Ed è solo grazie a lui se ci siamo salvati. O pensate davvero che saremmo riusciti da soli a rifornirci di gas? Voi avete visto tutti che i giganti lo consideravano una preda, proprio come fanno di solito con noi esseri umani. Adesso potremmo anche avere paura di lui, ma questa realtà resta innegabile. L'avete visto tutti, si è battuto giusto. Sì, non ce la sarebbe fatta senza suo. Non ci si due perché senti meglio. Svolta per la guerra. Pronti a fare fuoco! Non lasciatevi confondere, è solo una trappola! Oh. Io sono un soldato che ha appena giurato di offrire la propria vita per la rinascita del genere umano! Se potessimo sfruttare la sua forza, ora potremmo riconquistare questa città! Ripongo le mie speranze nell'onore e nell'intelligenza del genere umano! Ed utilizzerò gli ultimi istanti che mi restano! Prima che voi facciate fuoco! Per illustrarvi il valore strategico che potrebbe presentare questa soluzione! Capitano, forse sarebbe opportuno prendere in considerazione... Fa silenzio! Possono chiedere quanto vogliono di avere salva la vita, ma restano sempre dei traditori. Chi infrange le regole va eliminato. È questo il mio dovere di soldato. Basta così, Kitz. A dispetto della stazza, resti sempre delicato come un cucciolo di cerbiatto. Comandante Pixis! Hai notato il perfetto saluto di questo cadetto? Sai, spesso la vittoria può dipendere soltanto da un cavallo molto veloce. Tu occupati dei rincalzi. Adesso ho l'impressione che ci convenga ascoltare quello che hanno da dirci. Il comandante Pixis non solo è il responsabile più alto e in grado per il coordinamento nei territori meridionali, compreso il distretto di Trost, ma è anche colui che ha pieni poteri per la difesa dei distretti più importanti per il genere umano. Quindi, in quella stanza potremmo scoprire cose molto importanti. Allora, lei mi crede, signore? È una storia interessante, ad ogni modo diciamo che per adesso io mi limiterò a tenerla bene a mente. Cadetto Arlert, questo è il tuo nome, giusto? Sì, signore. Prima hai sostenuto che con la sua forza potremmo sconfiggere i giganti. Giunti a questo punto, devo assolutamente chiedertelo. Eri convinto di ciò che dicevi? O stavi soltanto cercando di avere salva la vita? Diciamo... entrambe le cose. In quel momento stavo pensando che... avremmo potuto... usare la sua forza per chiudere la breccia utilizzando quel masso gigantesco. Lo so che può sembrare ingenuo, ma è la verità. E poi... confidavo di riuscire a convincere il capitano che Eren non rappresentava un pericolo per noi. Naturalmente, stavo anche cercando una via d'uscita. Stavi cercando una via d'uscita. Ecco, è questo che volevo sentirti dire. E allora, cadetto Jaeger? Sì, signore. Tu saresti davvero in grado di richiudere quella breccia? Ma questo è... Io non so che dire. Non saprei neanche da dove iniziare. Mi dispiace, ma non mi sento in grado di dirle sì, sono pronto a farlo, oppure no, signore. Non sarebbe affatto corretto. Ah, sì, hai ragione, ti chiedo scusa. Forse ho posto la domanda sbagliata. Allora, tu ci proverai oppure no? Su, rispondi. E va bene. Io ci proverò. Non so se ci riuscirò, ma quel che è certo è che ci proverò. Glielo giuro. L'unità speciale sta entrando in azione in questo momento. Adesso io vi spiegherò come ho intenzione di riconquistare il distretto di Trost. Prima di illustrarvi come procederemo, io devo presentarvi una persona. Questo giovanotto è il cadetto Eren Jaeger. Infatti, è in grado di far comparire il corpo di un gigante e di comandarlo a proprio piacimento. Una volta trasformatosi, solleverà il masso che è nelle vicinanze della porta e lo utilizzerà per richiudere la breccia. Il vostro compito, soldati, consisterà per tutto il tempo che impiegherà per trasportare il masso nell'attirare i giganti e nel farli radunare tutti nei pressi delle mura. La protezione di Eren Jaeger in quel frangente sarà affidata ai soldati delle truppe scelte Ian Dietrich, Rico Brezenska e Mita Bijarnak. Vi affido la sorte del genere umano. Signor sì! Ci siamo! Adesso! Da quando sono apparsi i giganti, non siamo mai riusciti a sconfiggerli una sola volta. Negli anni il genere umano non ha fatto altro che ritirarsi in uno spazio sempre più ristretto. Ma stavolta, se il piano che abbiamo elaborato avrà successo, per la prima volta noi riusciremo a strappare ai giganti uno dei territori perduti. In questo caso sarà la prima vittoria che il genere umano avrà riportato contro quei mostri. È evidente che si tratterà di ben poca cosa al confronto di tutto ciò che l'umanità ha perso finora, ma questo piccolo passo sarà solo il primo di una grande avanzata che ci condurrà alla vittoria! Secondo parametri umani, è impossibile che qualcuno riesca da solo a smuovere quel masso. Ma se c'è qualcuno che può riuscirci, questo è soltanto Eren. Oh. Eren! Più! Io sono Mika, se ricordi? Faccio parte della tua famiglia! Adesso tu devi chiudere la breccia con quel masso! Mettiti al riparo, Ackerman! Ma che cosa gli è successo? Quello è soltanto un gigante come tutti gli altri. Eren! Capo squadra! Due esemplari in avvicinamento! Sono un classe 10 metri e un classe 6 metri! C'è anche un classe 12 metri che si sta dirigendo verso di noi! La missione è fallita. Io lo sapevo che purtroppo non esistono armi segrete. Ehi, guardate laggiù! Ma che significa quel razzo? È un segnale della nostra unità speciale! Ma allora, hanno fallito. Oh no! Ehi, Armin, dove vuoi andare? Comandante Pixis, dobbiamo schierarci subito a protezione della porta. Ho il suo permesso. Aspettate. Faccio ritirare l'unità speciale? Non ancora. Adesso continuate a tenere impegnati i giganti. In quanto all'unità speciale, gode della massima autonomia di azione. Rappresenta il meglio dell'esercito. E dai suoi componenti dipendono le sorti future del genere umano. Per cui sono certo che non ammetteranno facilmente la sconfitta. Sanno che abbiamo già subito delle gravissime perdite. E non permetteranno che tanti soldati siano morti invano. Assurdo. Sono a casa. Dormirò un po'. Attenti, ne arriva un altro! È un classe 13 metri e si sta dirigendo verso Jäger! Ne stanno entrando altri attraverso la breccia! Sono quattro classe 10 metri! Ackerman, tu pensa a quello alle nostre spalle! Ricevuto! Non dobbiamo permettergli di raggiungere Jäger! Blocchiamoli tutti qui! Ricevuto! Quattro giganti sono troppi per due sole squadre! Ne stanno arrivando tanti. Eppure qui ci sono pochissimi umani. Non può essere che siano attirati da Eren. Mikasa! Che ne è dell'operazione? Armin! E che cosa è successo, Eren? Allontanati subito da lì! Quel gigante non sembra più rispondere alla volontà di Eren. Ho provato a parlargli, ma non ha reagito. Ormai insistere non avrebbe più senso. E l'operazione? È fallita! Ma non possiamo abbandonarlo qui, ecco perché stiamo ancora combattendo! Ma i giganti sono troppi e presto verremo tutti sterminati! Eren era riemerso dal punto vitale dei giganti! Ma cosa? E questo deve avere qualche rapporto con la loro stessa essenza intrinseca! Non ti preoccupare! Basterà evitare di colpire al centro! E Eren non morirà! Gli farà solo un po' male, forse! No, non farlo, Armin! Armin, vieni subito via da lì! Mikasa, adesso pensa a fare quello che devi fare! Qui intorno ci sono delle vite che soltanto tu puoi salvare! Lascia che mi occupi io di Eren! Eren, ora mi senti? Cerca di scuoverti! Cerca da qui, moriremo tutti! Eren, esci da lì! Sbrigati! Eren! Eren! Non volevi vendicare la morte di tua madre! Oh, forse non ti interessa più che sia fatta giustizia come avevi sempre sognato! Ma che cosa stai dicendo, Armin? Guarda che mia madre è qui con me! Eren! Eren! Svegliati, ti prego! Eren! Tu sei qui dentro, lo so! Eren! Se non esci, verrai ucciso dai giganti! E allora sarà la fine di tutto! Te lo ripeto, non capisco quello che mi stai dicendo, Armin. Perché mai dovrei uscire dalla mia casa? Spiegamelo. Dimmi perché dovrei tornare. Sì, tornare nel corpo di ricerca. Sei mio! Final. finalmente hai fatto la fine che meritavi! Tutti via da qui, subito! Ackerman, a rapporto! Mi riunisco all'unità a Mitavi! Ma cosa... John! Vattene via da lì! Non voglio che oggi qualcun altro muoia a causa mia! Doveva rompersi proprio adesso! John! Ma che cosa fa? Perché non usa il movimento tridimensionale? Non dirmi che ho un guasto al dispositivo. Io me la caverò comunque! Eren, mi senti? Un giorno andremo insieme in esplorazione del mondo esterno, vero? Molto lontano, al di fuori di queste mura, ci sono continenti di ghiaccio e distese di sabbia e meraviglie quali non abbiamo mai visto. Pensavo che tu ormai l'avessi dimenticato, ma se non me ne hai più parlato è perché... Perché non volevi che io scegliessi il corpo di ricerca? È così, non è vero? Il mondo esterno. Eren, ora rispondimi. Nonostante sapessi che al di fuori delle mura c'è un mondo infernale, perché hai deciso di voler andare nel mondo esterno? Vuoi sapere perché? Secondo te... C'è bisogno di chiederlo. Perché io in quel mondo ci sono nato! Ormai qui è finita! Ci siamo rimaste solo noi due! Andiamo verso il masso! Qual è la situazione? 5 esemplari, provenienti dalla breccia. Non posso certo restare qui ad aspettare. John! Proprio adesso doveva rompersi! Che succede? Maledizione! Ma che ti prende? Non fare scherzi! Devi funzionare! John, attento! Marco! Ma che cosa vuoi fare? Arrivo! Cerca di tenere duro, John! Accidenti! Ma come mai è così duro questo dannato grilletto? John! Ma che combini? Senti chi parla! Va via da lì! Sì, ma mai quanto te! Comunque siamo ancora tutti vivi. Guardate laggiù. Mikasa! Adesso sta tentando di portare a termine la sua missione! A questo punto ci basterà coprirgli le spalle fino alla breccia e la vittoria sarà nostra! Avete sentito? Dobbiamo permettergli di portare a termine la missione! Dovesse costarci la vita! Nessun gigante dovrà riuscire ad ostacolarlo! Che cosa stiamo aspettando? Adesso sta a noi fare la nostra parte! Voi due, andate immediatamente ad affiancare Eren! Questo è un ordine! Devo ripetervelo! No, ricevuto! L'unità di Mito! Ma che fanno? Forza! Sembra che non ci abbiano neanche visto! Dobbiamo attirare la loro attenzione! Ehi, noi siamo da questa parte! Se non vi girate, vi ammazzerò infilandomi una spada su per il culo! Arrivano! Hanno abboccato in due! Correte! Dobbiamo raggiungere quel grosso palazzo! Ma è assurdo! Scendere a terra equivale ad un suicidio! Senza cavalli o palazzi non riusciranno mai a salvarsi! Hai ragione. A questo punto non abbiamo altra scelta. Seguiamo l'unità di Mitopi! Armin, andiamo anche noi! Coraggio! Inseguimi! Mi sento come... come se stessi per andare in pezzi. Mikasa, Armin! Ma che state facendo? In questo modo diventerete preda dei giganti! Allora, non dirmi che ti sei già stancato! Cerca di prendermi! Ehi, attento! No, Mitopi! Perché hai deciso di voler andare comunque nel mondo esterno? Tutti su questa terra, dal primo all'ultimo uomo, sono liberi. E se c'è qualcuno che vuole privarci di questa libertà, noi dobbiamo reagire. Fiumi di lava, continenti di ghiaccio, mi va bene tutto. Perché chi li avrà visti sarà sempre una persona libera di andare ovunque desideri. Combatti. Per questa libertà sono pronto a sacrificare tutto. Non ha importanza quanto questo mondo possa sembrarti orribile. Non ha importanza quanto questo mondo sia crudele. Combatti! Combatti! Combatti! Combatti! Combatti! No! Un altro gigante! Ci penso io! Togliti di mezzo! Ah! Compagni, la vostra morte è stata preziosa. Oggi il genere umano, per la prima volta, ha battuto i giganti. Mocciosi, si può sapere che state aspettando? Le ali della libertà. Come on. Hai qualche domanda? Scusate. Posso sapere dove mi trovo?